Pace di Raffaella Calandra. Un cordone di incappucciati, tutti in fila, con i caschi in testa e le mazze in mano, camminano a ritroso per chiudere il corteo e controllare l'avanzata della polizia. Davanti a loro una carrozzella con un uomo coperto da un casco. Dei disordini del 1° maggio a Milano resterà nel tempo anche questa immagine, quella degli indumenti neri abbandonati poco dopo in via Guido d'Arezzo. Seduto sulla sedia a rotelle, attento a non bucarne le ruote, tra cocci e fiamme c'è uno storico anarchico che a 67 anni, dopo una lunga latitanza e un brutto tumore che l'ha paralizzato, riprende la militanza attiva, ma stanno aumentando, ci dice, quelli che hanno fatto banda armata e ora tornano in piazza come me. Con lui allora entriamo nella galassia dell'anarchia che si nasconde dietro l'anima nera dei cortei più violenti. Sono anarchico e come tale non rappresento nessuno. La sua professione di fede, Pasquale Valitutti, detto Lello, la fa subito. A mo' di presentazione, più che l'identità, conta questa appartenenza. Per chi come lui ha un passato nella banda armata, una militanza anarchica, accanto a nomi che sono diventati pezzi della storia d'Italia, come Giuseppe Pinelli. E ora, dopo una latitanza, altri due arresti e un tumore che lo costringe sulla sedia a rotelle, è tornato in piazza, accanto ai Black Bloc. Col suo casco e la sua carrozzella, mentre un cordone di incappucciati camminava a ritroso quasi alla fine dei riot di Milano il 1° maggio. Non era soltanto lei anarchico? Mi auguro di no. Anche guardando le scritte poi rimaste sui muri, insomma, certo, erano scritte di Chiara. Mi auguro di no. Quella fotografia con tante persone, col casco in testa, con le mazze in mano che formavano una specie di cordone, e poi lei davanti col casco e con la sua carrozzella, sicuramente ha colpito per tante ragioni. Come una sorta di schieramento con le mazze in fila, e camminavano a ritroso, giusto? È possibile che camminassero indietro. Quando uno cammina indietro per vedere quello che succede davanti, alle manifestazioni vado quando posso, quando le mie condizioni di salute permettono ci vado, perché sono semplicemente uno di loro, insieme a loro. Un conto è il manifestare il proprio dissenso legittimamente, democraticamente, un conto è l'aspetto della violenza, dello scontro. Ma adesso ci arriviamo. Era tutto bello organizzato, il fatto che queste persone si siano vestite per non essere riconoscibili, si siano passate un segnale per cominciare un po' a tutte le varie azioni, e poi in quella foto lì tutti schierati con le mazze in mano, il casco in testa, tutti uguali, che camminavano a ritroso. Ma era stato ben deciso, organizzato prima quello. La gente non vuole farsi riconoscere e ci si mette il casco in testa per evitare di essere colpiti. La mia esperienza nelle manifestazioni mi dice che l'organizzazione nasce durante la manifestazione. Non ci sono piani, c'è un istinto, una capacità di organizzarsi per difendersi, che viene da solo però. Però c'è quantomeno una persona che fa da punto di riferimento, no? Perché altrimenti... Ma non c'è, guardi, questo non c'è. Io non l'ho mai visto. Si parla spesso anche di questi manuali che girano online, anche greci. Mai visto un manuale in vita mia, le giuro. Se qualche manuale esiste, sono dei manuali in cui ti dicono se la polizia ti ferma, chiama subito l'avvocato. C'erano molti stranieri in questo gruppo nero? Io sono stato prima che iniziasse la manifestazione. Ho parlato con la gente che era radunata in piazza, non mi è sembrato che ci fossero molti stranieri. Quando si sono coperti, non ho più capito chi c'era e chi non c'era, non glielo posso dire. L'idea iniziale era anche di fare qualcosa di un po' più forte, vero? Ho chiesto a tante persone che conoscevo, ma com'è l'aria oggi? Non c'era nessuno che sapeva come sarebbe andata. A un certo punto la polizia ha cominciato a buttare dell'acqua sulla gente. Prima che la polizia azionasse gli idranti, c'erano stati gli assalti alle vetrine della concessionaria di auto di Via De Amicis, e c'erano stati i primi lanci di bottiglie anche contro la polizia, poi, e anche di petardi o di qualche bomba carta. Poi la polizia ha risposto con gli idranti. Ho visto la sequenza delle scene. Ha risposto anche con gli idranti, ma in questo modo ha provocato qualche reazione. Sebbene non sia certamente un bilancio di poco conto, si è impedito, come dicevo, il raggiungimento dello scopo prefissatosi dagli antagonisti, e cioè di estendere l'area della devastazione all'intero centro milanese, colpendone gli obiettivi più simbolici. Sono la Scala, la Borsa, il Palazzo delle Stelline e la Camera di Commercio, gli obiettivi a cui fa riferimento il ministro dell'Interno nella sua informativa alla Camera. I violenti del 1° maggio puntavano a farsi rincorrere per far spostare le forze dell'ordine dai varchi verso il Duomo. È per questo che Angelino Alfano considera tattica e strategica la linea presa in piazza il 1° maggio, criticata invece da tanti. Trasformare la piazza in una sorta di arena dove si confrontano due parti, l'una opposta all'altra, è un grave errore. Le forze di polizia non si contrappongono per definizione a nessuno. Ma chi c'era dietro quei passamontagna neri? Chi brandiva quei martelletti che hanno sfondato vetrine? Chi ha incendiato auto, banche e negozi? Ci sono tedeschi, greci, francesi. Alcune scritte nelle loro lingue restano ancora sui muri di Milano. 180 i profili già individuati dalle forze dell'ordine. Ci sono tanti giovani e poi sentiremo se siano effettivamente tepistelli coi Rolex, per dirla col Premier. Ma ci sono in piazza sempre di più, pure ex degli anni di piombo. Gente che oggi di anni ne ha 60 e più, gente anche con un passato nella banda armata. P38 contro l'Expo è stata la prima brutta scritta che ho fotografato in piazza 24 maggio prima che il corteo partisse, poi su Via di Amicis, quella Via di Amicis, quella della celeberrima foto, simbolo degli anni del terrorismo, si rievocava il 77. Gente, insomma, di quell'epoca tornata in piazza ora come l'anarchico Lello Valitutti. Gli effetti collaterali di quello che facciamo noi possono portare a bruciare la macchina di una persona che non è tanto ricca. Gli effetti collaterali delle bombe che lancia il potere portano a uccidere sterminato numero di bambini, di donne, di civili innocenti. E questa è la vostra posizione, però perché in qualche modo contrapporsi e quindi contestare, che è qualcosa di assolutamente legittimo, ma perché farlo in modo violento? Se uno oggi crede, si illude, che con le buone maniere questa gente che è al governo possono capire qualcosa, o è un illuso o è un colluso. Quindi secondo lei questi scontri violenti sono destinati ad aumentare? Io lo spero, cioè, io spero che non solo i ragazzi, ma che tanta gente dica basta. Sì, ma lo può dire in tanti modi, anche senza sfasciare una città. Mi spiega una cosa, Valitutti. Lei ha una lunga storia alle sue spalle, che parte... Sono vecchio, ho poi 70 anni come tutti. Anzi, su questo le volevo prima chiedere: a manifestare nel modo più violento in piazza c'erano soprattutto però persone più giovani? Ah, c'erano sicuramente persone più giovani, perché purtroppo tanti di quelli che hanno combattuto alla mia età dopo hanno deciso di ritirarsi, ed è un grosso errore, perché questi ragazzi non sono figli di nessuno. Sono figli di una lotta che va avanti da tanto tempo e da sempre. E anche gente che arriva in piazza e portandosi dietro negli zainetti i martelletti frangivetro, i martelli con cui con i miei occhi ho visto picconare il muro dell'Università di Milano, oppure spaccare le vetrine dei negozi, oppure lanciare bottiglie Molotov contro i negozi, oltre che contro le banche. Insomma, mettono in conto... Ma hanno fatto bene, eh. Io parlo per me stesso perché sono uno di loro, C'erano molte scritte fatte durante il corteo del 1° maggio che rievocavano gli anni di piombo. Una era P38 contro l'Expo, in un'altra scritta si rievocava il 1977 e altre erano dello stesso tenore. Perché secondo lei c'erano queste scritte che rievocavano anche proprio gli anni di piombo? Sono stati anni di piombo per i padroni, ma sono stati anni molto belli per i poveri, per i proletari, che finalmente non hanno dovuto subire come sempre la costante ingiustizia, la costante violenza del potere. Cioè, in qualche modo c'è voglia di far ritornare quel tipo di risposta degli anni di piombo? Io me lo auguro di tutto il cuore. Beh, però è una bella contraddizione che lei dica che le persone chiamano la pace e la giustizia e poi vogliono il ritorno degli anni di piombo. La P38 è una pistola che ha ammazzato un sacco di gente. Quando lei vede che un mondo in cui la violenza domina, se lei ama veramente la pace, lotta con tutti i mezzi a sua disposizione per avere la pace. Capita che ci siano anche negli scontri delle persone molto giovani, anche minorenni? No, penso proprio di no. Quanti siete più o meno le persone un po' più avanti negli anni? È un numero variabile, ma tende a crescere. I militanti di un tempo, degli anni di piombo, che oggi ritornano in azione? Ma non solo degli anni di piombo, anche gente che era di lotta continua, anche gente che era di organizzazioni di potere operaio, anche gente non necessariamente proprio gente che ha partecipato attivamente alla lotta armata, ma anche quella, vedo che tendono a aumentare. Non sono ancora tanti, però tendono a aumentare. Già nel corteo del 25 aprile a Milano c'erano pure ex della colonna Walter Alasia, mescolati ai centri sociali a contestare la brigata ebraica. Il primo maggio invece c'erano degli altri di quella stagione, anche se la maggioranza degli incappucciati è nata quando quell'epoca era ormai già finita. Ma che significa questo ritorno in strada di chi si è macchiato anche di reati per banda armata, di chi ha ucciso? Può significare un'ulteriore deriva dei cortei più violenti? Storiacce. Un'efficace misura potrà consistere nell'estendere anche ai professionisti della violenza di piazza il cosiddetto arresto differito, istituto che oggi è operativo solo nei confronti dei facinorosi che allontaniamo dagli stadi e dalle manifestazioni sportive. Altre misure nel segno della prevenzione andranno a proteggere le aree urbane delle maggiori città dal proliferare di manifestazioni e cortei che troppo spesso diventano occasione di tafferugli, scontri e devastazioni. Arresto differito, come per gli ultra, il reato di travisamento per bloccare gli incappucciati e misure a protezione delle città. Dopo i disordini del primo maggio, il governo accelera sulle misure contro i cortei violenti e lavora a norme da inserire nel disegno di legge sulla sicurezza urbana. È questa la strada per evitare devastazioni sempre più frequenti in occasioni di contestazioni o anche insistere di più sulle espulsioni, motivo di latente tensione alla vigilia del corteo No Expo tra le forze dell'ordine e il Palazzo di Giustizia. Spesso si conoscono infatti anche i nomi dei più pericolosi e non solo degli italiani. Si scambiano contatti tra di loro, infatti condividono battaglia, si ospitano a vicenda, per definizione, in quanto anarchici, negano ogni organizzazione. Ma a vedere come agiscono in piazza sembra invece proprio il contrario. In piazza a manifestare contro l'Expo con la sua carrozzella e il casco in testa c'era insieme al blocco nero pure un anarchico di lungo corso, come abbiamo sentito, come Pasquale Valitutti, che nella prima parte di Storia ci ha detto stanno aumentando gli ex degli anni di piombo tornati in piazza e anche gli scontri più estremi cresceranno in numero. Lui quegli anni li ha vissuti in prima linea. 67 anni, condanna per banda armata, una latitanza e una storia passata pure da Piazza Fontana e dalla notte di Pinelli fino al ritorno ai nuovi riot contro l'Expo e contro la TAB, anche se ci arriva col Freccia Rossa. Non posso fare a meno di prenderla. Io devo prendere per forza i treni a alta velocità perché sono i soli che hanno la carrozza per i disabili. Se io volessi andare su un treno locale non mi mettono su. È sicuramente un po' quantomeno una contraddizione a cui anche lei ogni volta ci avrà pensato, no? Casomai le è venuta anche la tentazione di qualche piccolo sabotaggio. No. No. Alla contraddizione di manifestare contro l'alta velocità e poi di prendere il Freccia Rossa ci avrà pensato ogni volta che sale su un treno? Ma ho pensato come sia assurdo che il disabile non possa scegliere. Ma lei quando parla dei ragazzi ci fa capire sono studenti, sono persone che stanno cercando lavoro? Tanti studenti fuori sede, ci sono ragazzi che lavorano. Poi ci sono anche tante ragazze. In questi ultimi anni ce ne sono sempre tante. Renzi, il premier, ha detto che si tratta di teppistelli figli di papà. Io non ne conosco nessuno, che poi ci posso essere, non lo so. Ma che figli di papà? Se nel 68 poteva avere un qualche significato in certe frange di certo movimento, oggi è semplicemente ridicolo. Secondo lei, in una di queste manifestazioni c'è mai stato qualcuno che ha portato anche un'arma? No, lo escludo assolutamente. Come fa a escluderlo? Perché conosco le persone e io sono amico delle persone più radicali. Che vuol dire l'ala più radicale? Quelli che contestano in modo più deciso. Quindi anche più violenti. Se non c'è lì, non c'è assolutamente niente di simile lì, posso escludere che ci sia. staccarsi dalla massa per azioni breve, sfondare vetrine, lanciare molotov e poi tornare nel mucchio nero per non farsi riconoscere. La condotta degli anarchici ormai è consolidata nel tempo. Circolano anche dei manuali, soprattutto greci, e nel tempo si ripetono pure gli obiettivi, ora Milano, come Cremona prima, come Francoforte o Roma, anche se poi negano tutto loro, negano per definizione ogni organizzazione, come fa ancora Vallitutti, che per prima cosa di sé dice: io sono anarchico. Se voi volete cercare una forma organizzativa e possibilmente gerarchica, ed è difficile, ognuno esprime il suo disgusto. Sì, no? Però erano tutti vestiti allo stesso modo e avevano tutti portati con sé anche gli stessi strumenti. Ma siamo vestiti in modo simile per confondere ancora di più. Cioè, appunto. Ci sono tantissimi abiti in tantissime circostanze simili, tutta la gente si veste. Ha colpito tutti, da quando invece poi tutti questi abiti impermeabili, caschi, guanti neri sono stati abbandonati tutti insieme nello stesso momento in via Guido d'Arezzo. Un gruppo di compagni valuta in qualche modo che non è più il caso di stare travestiti, e vuol dire che non si ritiene più di dover continuare uno scontro. Ma lei come fa con una carrozzella? Tra le cose per terra, il coccio di vetro, avendo purtroppo la mia carrozzina ancora le ruote pneumatiche, spero di avere presto quelle piene, devo andare a passo l'uomo, cercare di infilarmi a zig zag per evitare di rompere le ruote, no? E certo, altrimenti si bucano. Facendo questo sono stato raggiunto dalla polizia, sono venuti da dietro correndo due poliziotti, io dico due sbirri perché sbirri comprende tutti, mi hanno preso da dietro, mi hanno cercato di fermarmi, mi hanno dato un po' di colpi in testa, niente di importante, mi hanno detto: bastardo, noi sappiamo chi sei, ti conosciamo, la parola esatte sono state: ti facciamo saltare le cervella. Ora, questo è successo a Milano, in un giorno in cui tutti quanti dicono: ah, ma la polizia è stata troppo democratica. Vi aspettavate che la reazione della polizia fosse diversa, fosse più dura? Era possibile che fosse più duro il comportamento. Lungo il percorso del corteo del primo maggio sono state attaccate le vetrine delle banche, di alcuni negozi, le auto, e poi però sono state anche, per esempio, spaccate e tolte le telecamere che c'erano lungo la strada. Se voi guardate la storia, cosa hanno distrutto a Cremona? Le stesse cose che hanno distrutto a Milano. Cosa succede quando i manifestanti distruggono? Distruggono sempre gli stessi obiettivi. Sono sempre simboli della ricchezza. E anarchico lo è da tempo, dagli anni neri del terrorismo, dalla notte in cui Giuseppe Pinelli volò dalla finestra della questura di Milano dopo la strage di Piazza Fontana, e il suo sangue si portò dietro quello del commissario Luigi Calabresi. Eravamo rimasti su Giuseppe Pinelli, io ero nella stanza vicina a cui veniva interrogato Pinelli, vedevo il corridoio, a me è stato chiesto: ma è passato qualcuno in quel corridoio prima che assassinassero Pinelli? E io ho detto la verità, semplicemente la verità: qua non è passato nessuno. Invece il commissario Calabresi aveva detto di essere andato nell'ufficio di Allegra. Se fosse andato da Allegra lo avrei visto. Subito dopo la morte di Pinelli, lui è venuto nella stanza dove ero io e mi ha detto testualmente: guardi che non capisco perché ci si è buttato, stavamo parlando tranquillamente. Lei poi è stato anche per un bel po' di anni, è stato anche latitante. Perché ho partecipato all'associazione rivoluzionaria, di azione rivoluzionaria, che è l'unica organizzazione anarchica della lotta armata. E quando è stato latitante dove ha vissuto? Prima nella Nicaragua sandinista, che ho girato un po' per l'America Latina, sono stato arrestato due volte, sempre su ordine del governo italiano, e per due volte è stata respinta la mia estradizione perché fatti politici. Lei è tornato in Italia, in sostanza, quale è data in prescrizione la pena? 14 anni, quando è data in prescrizione la pena, nel 1998. Poi però ha anche ripreso la lotta attiva. Quando sono tornato in Italia, a ottobre mi hanno trovato cancro, ho avuto problemi alla colonna vertebrale per una metastasi, mi sono paralizzato, per alcuni anni non ho partecipato tanto. La verità è che, come ricordò la dea Atena agli ateniesi sul finale delle Eumenidi di Eschilo, né anarchia né dispotismo, la democrazia sta in mezzo. La linea allora, come sempre a questo punto, va alle mitiche storiacce e a Giorgio Geranò, professore dell'Università di Trento e autore di libri sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. Forse Il primo manifesto no global risale al tempo di Nerone, quando il grande filosofo Seneca scrisse parole che suonano stranamente attuali. Le scrisse nella sua tragedia Medea, una tragedia truculenta come tutte quelle di Seneca, dove a un certo punto si rievoca il giorno in cui la prima nave ha solcato i mari. Era la nave Argo, costruita dall'eroe Giasone per andare alla ricerca del vello d'oro. Quel giorno, dice Seneca, diede inizio a una nuova epoca che ha omologato il mondo, ha distrutto le forme tradizionali dell'esistenza, ha cancellato le culture locali. Una volta ciascuno viveva di quello che gli forniva la terra in cui era nato, scrive Seneca in una specie di elogio del chilometro zero. Poi, continua, il mare si è arreso agli uomini e ora le navi lo attraversano in continuazione, le merci viaggiano da un angolo all'altro del mondo, non ci sono più confini, niente è rimasto al posto di prima, tutto il mondo è una strada, l'indiano si disseta nei fiumi delle steppe, i persiani bevono l'acqua del Reno. Seneca era anche un politico, fu consigliere dell'imperatore Nerone che alla fine lo costrinse a tagliarsi le vene. E forse nelle sue parole non c'è solo la nostalgia di un paradiso perduto. Forse la sua critica contro la globalizzazione è anche un attacco politico all'espansionismo degli imperatori che in quegli anni mandavano le loro legioni fin nella remota Britannia. Ci permettiamo comunque un consiglio a chi vuole protestare contro l'Expo. Non spaccate le vetrine, recitate Seneca.